Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ha 37 secondi per decidere e trovare un posto per atterrare. Sotto di loro è ancora centro abitato. Vede un campo appena arato, ma all'ultimo momento trova i fili dell'alta tensione. Sbatte contro un palo della luce, un'ala si stacca e l'aereo atterra sopra un muretto di recinzione. Sono Paola Pascotto, ho 64 anni, abito a Pordenone. Segnatevi questa data, mercoledì 24 ottobre 2012, cioè tra poco meno di un mese. Se siete di Milano, dalle parti di Milano, o avete facilità a venire in questa città e soprattutto siete amanti dell'arte, avete voglia di passare una serata speciale solo per gli ascoltatori di Radio 24 a vedere una delle mostre più importanti che passano in quest'anno, probabilmente in questi ultimi anni, da Milano, aprite bene le orecchie perché Radio 24 vi fa un grande regalo. Appunto, mercoledì 24 ottobre 2012 a Palazzo Reale di Milano, per in occasione della mostra su Picasso, in cui c'entra anche Radio 24 e Sole 24 Ore. Niente, ero andato giusto fino a qua, arrivo e dico: la mostra in cui c'entra anche Radio 24 Sole 24 Ore. Ci sarà una serata particolare chiusa al pubblico e dedicata solo agli ascoltatori di Radio 24. Se avete voglia di partecipare, negli altri programmi ci sono altri modi. Nel nostro programma si fa così: pensate una storia legata a un quadro di Picasso che avete visto. Dove eravate, come l'avete visto, come ci siete arrivati, cosa è successo mentre eravate lì, che cosa vi ha ispirato quel quadro. Una piccola storia, nello stile nostro, di Voi siete qui, legata a un quadro particolare che sia di Picasso, ovviamente, perché la mostra è di Picasso. La inviate a Voi siete qui, @radio24.it. Alle prime 20 storie che arrivano da qui a quella sera, insomma al 24 ottobre, se ne arrivano 20 da qui al 24, entrano tutti, se ne arrivano 21, le prime 20, raccontate questa storia a Voi siete qui, @radio24.it, e ad ogni partecipante verranno regalati 2 biglietti. Durante la serata non ci sarà solo la mostra da visitare, ci saranno persone che sanno raccontarvi la mostra, ci saremo io e alcuni conduttori di Radio 24 e ci sarà, credo, un piccolo evento tenuto da Gianluca Nicoletti insieme a Barbara Alberti. Vi ricordo quindi, Voi siete qui, @radio24.it, per partecipare alla serata in esclusiva per gli ascoltatori di Radio 24, alla serata dedicata alla mostra di Picasso, Palazzo Reale, Milano, 21 alle ore 21, mercoledì 24 ottobre. Vi ricordo una storia breve, una storiella, non serve per forza una pagina, che riguardi un quadro di Picasso che avete visto e la inviate. Voi siete qui, @radio24.it. Ci sono 40 biglietti che vi aspettano, 2 per ognuno di voi. 349-238-6666. Torniamo ad oggi, torniamo alla storia che ci ha raccontato Paola e che racconta di un incidente. Di un incidente che fortunatamente sappiamo subito essere finito bene, se possono finire bene, direi di sì, possono finire bene gli incidenti, perché ce ne sono altri che finiscono male, che riguardano il marito e il figlio che sono su un aereo. Lei lo racconta decisamente meglio di come posso farlo io. Se però vi è mai capitato di finire in un incidente, non solo per colpa vostra, ma anche e soprattutto per colpa di qualcun altro, ne siete usciti illesi e volete raccontarlo, 349-238-6666, oppure avete un profilo Facebook a disposizione, tutto per voi, e Voi siete qui Radio 24, o altrimenti anche la mail, se avete una mail davanti agli occhi, Voi siete qui @radio24.it. vi faccio un esempio. Olli, credo, niente, sono i nomi inventati per Facebook, facendo rally con una vecchia A112, un amico a fianco e un paio di birre in più in corpo, quindi non era un rally vero, cioè facevate gli imbecilli con un A112, con un amico a fianco e un paio di birre in corpo, un sabato notte ci siamo ribaltati giù da un prato, dopo un paio di giri ci siamo fermati e siamo scesi senza un graffio. 349-238-6666. Barbara, se ti dico quello in cui... Bello questo inizio di messaggio. Se ti dico quello in cui, per un colpo di sonno, sono finita contro l'obelisco dell'Eur a Roma e l'ho sfangata perché c'erano su i ponteggi per il restauro e perché il pianale della mia auto è piuttosto basso e urtare l'aiuola in travertino ha rallentato la corsa, mi credi? Beh, Barbara, direi di sì, insomma. Può essere, non mi sembra una roba così assurda. E mi credi anche se ti dico che i teli che coprivano i ponteggi pubblicizzavano l'ultimo Terminator? Boh, sì, ho testimoni e le ricevute del carrozziere. Guarda Barbara, non serve, basta la storia. Anna, sono passati più di 20 anni, mi hanno investito sul marciapiede, una macchina sbanda, mi prende da dietro, mi fa cadere a terra e si ferma, fortunatamente arrestando la sua corsa vicino alla mia testa, solo lievi escoriazioni. Ecco, anche roba meno di questa, anche meno, vale, basta un piccolo incidente, usciti illesi. 349 238 6666. Questo non era un piccolo incidente, è l'incidente raccontato da Paola. Sabato 12 novembre 2011. Domani partiamo per Cuba con Bruno e Graziella. L'anno scorso è andata male perché la compagnia aerea è fallita, ma quest'anno è tutto programmato. Volo Air France, auto a noleggio e case particolari. Siamo pronti. Ore 10:30. Sono al supermercato a prendere 2 etti di crudo dolce tagliato sottile, grazie. Suona il telefono. È mio marito. La prima cosa che mi dice è: Paola, siamo caduti con l'aereo. È un aereo che mio marito aveva con altri 2 soci, quindi lui è un grande appassionato di aeronautica, di aerei, di tutto. Aveva fatto il brevetto, anzi ne aveva fatti più di uno anche. Era una cosa che sognava da sempre, sin da bambino. Siamo vivi, mi dice. A me fa male una gamba, ad Andrea fa male il piede. Nostro figlio Andrea era solo al secondo volo con suo padre e non è neanche una cosa che gli interessi molto. Lo fa più per far piacere a Silvano. Quando arrivo al pronto soccorso, Silvano è già lì. Poi, dopo 5 minuti, arriva Andrea con l'ambulanza. Ha la maschera con l'ossigeno ed è tutto avvolto da materassini. Lo riconosco dalle mani. Parlo con loro e mi tranquillizzo. Li ricoverano tutti e 2 in ortopedia. Silvano ha rotto il bacino con una frattura multipla e scomposta, oltre a una vertebra. Andrea invece, a cui hanno fatto il gesso al piede destro per una lussazione, ha 3 vertebre fratturate leggermente. Dovrà portare il busto per 3 mesi. Silvano viene operato dal direttore di ortopedia del civile di Pordenone. È un'operazione abbastanza complicata e sono stati messi 2 supporti e chiodi al titanio. A guardare i raggi sembra un campo minato. Un sacco di amici vanno a trovarli, i giornali riempiono le pagine per 3 giorni. Tutti vogliono sapere cosa è successo. È successo questo. Appena decollati e in assetto, sopra torre, il motore del biposto si spegne. Silvano, calmo e concentrato secondo quanto gli hanno insegnato, lo riaccende, ma si spegne improvvisamente per la seconda volta e poi per la terza. Sono a 150 metri di altezza, troppo bassi per scegliere dove andare. Lui ha 37 secondi per decidere e trovare un posto per atterrare. Sotto di loro è ancora centro abitato. Vede un campo appena arato, ma all'ultimo momento trova i fili dell'alta tensione. Non può a motore spento che buttarsi giù in picchiata per prendere velocità e poi avere la forza di buttarsi su e oltrepassarli. Ce la fa, ma sbattendo contro un palo della luce, un'ala si stacca e l'aereo atterra sopra un muretto di recinzione e finisce la sua corsa contro una rete. La parte frontale dell'aereo è sbriciolata. Restano il motore, l'elica e la coda. Non mi fa paura perché quello che è successo non è sicuramente colpa sua. È stato un problema del motore, dell'aereo, e quindi io mi sento sicura anche a volare con lui. Non ho problemi. Silvano esce carponi, si siede a terra e mi chiama al telefono. Alla radio intanto aveva già informato l'aeroclub dichiarando che il motore si era spento e al termine della discesa aveva messo in sicurezza l'aereo. Andrea ha avuto molto paura, ma riesce a riprendere con la sua telecamera tutto il volo. Si lamenta per il piede e i vigili del fuoco, già chiamati da alcuni passanti, arrivano in pochi minuti e lo estraggono dai resti. Sono fradici di benzina. Ecco, ora sono qui. Il percorso di guarigione è molto lungo, ma stiamo vedendo finalmente la fine. I'm on a blood. Quante persone conoscete che sono vive dopo un incidente aereo? Io nessuna. Sì, a parte qualche intervista vista in TV su qualche canale satellitare, quelli che parlano di incidenti ad alta quota. Oppure la storia, ve la ricordate? Quella del comandante di quell'aereo che un paio d'anni fa a New York ha fatto ammarrare il suo apparecchio con più di 100 passeggeri nel fiume, nell'Hudson, con una calma olimpica, dicendo alla torre: scendo nell'Hudson. Questi sono i tipici episodi di vita, o incidenti sarebbe meglio dire, che quando li senti alla TV o li vedi sul giornale, pensi che capitino sempre a qualcun altro. Cioè, non li credi impossibili perché sai che succedono, perché un aereo che cade o una nave che affonda o un treno che deraglia sono avvenimenti che rientrano tra le eventualità realistiche. Però, in sostanza, un secondo dopo aver letto quelle notizie, torni a fare quello che stavi facendo prima. Ma cosa si prova quando si è coinvolti anche solo tangenzialmente in qualcosa che non pensavi mai sarebbe successo a te? Ogni tanto mi capita di guardare quei programmi tipo Ultimo Minuto, no? In cui qualcuno rimane in bilico tra la vita e la morte, spesso in situazioni assurde, e poi tutto si risolve per il meglio, testimoniato dal fatto che lui stesso è lì a raccontarlo. E ogni volta mi viene da dire o da pensare cose tipo: mazza, guarda questo come si è conciato. Di recente, addirittura su un canale satellitare, ho scoperto che esiste un programma che si intitola Curious and Unusual Deaths, che in italiano è tradotto con Strani modi per morire. È un programma in cui si raccontano storie tipo la storia di un venditore di bibbie colpito da un fulmine sotto un cielo azzurro, o di un tizio che annega nel piatto del suo gatto in meno di 3 cm d'acqua. Ecco, per programmi come questo mia nonna userebbe sicuramente l'espressione «Oh signor, se ne inventano di tutti i colori». Al di là di questo, però, l'intrattenimento è pieno di formule che si basano proprio su incidenti molto rari o rocamboleschi, raccontati con il massimo della suspense. Però, se sei al supermercato, un giorno qualunque, a prendere 2 etti di crudo dolce tagliato sottile, e ti chiama tuo marito dicendoti che lui e tuo figlio sono appena precipitati con un aereo, esattamente cosa pensi? Cosa ti succede? Cosa fai? Le volte in cui mi sono arrivate notizie drammatiche, ricordo che ovunque io mi trovassi, la sensazione che ho avuto è stata subito: cosa ci faccio qua? Come se tutto quello che fai di solito quando fai qualcosa sembri stupido e inutile di fronte a un episodio drammatico. Ma questo è un altro capitolo. A 14 anni, da solo, mi cappotto con la Renault 4 di mio nonno, sfioro un palo della luce. Risultato: un gran polverone, spavento di tutti gli agricoltori dei dintorni, me la cavo con un mega cazzettone e una botta alla spalla. E qua dice: vabbè, ne è uscito. Ma c'è di più. La macchina diventa più bassa di 20 cm, ma funziona ancora. Andrea. E poi ancora: mio padre è sopravvissuto al cappottamento del bimotore che pilotava 50 anni fa. Forse si parla di... No, di guerra no, 50 anni fa è troppo tardi. No, era probabilmente per diporto. Mio marito Cesare è precipitato proprio a fianco... Ragazzi, ma quanti precipitano questi aerei? È precipitato proprio a fianco del monumento ai caduti di Como, evitandolo per un pelo. Setto nasale rotto, grande abilità di pilota esperto. E siamo qui a raccontarlo. Ma è qui a raccontare questa storia soprattutto Paola, che l'ha vissuta tangenzialmente. In questi mesi ha fatto più che altro l'infermiera, ma il tunnel è praticamente finito. Vero Paola? Sì, io sono qui. Ciao, ma buongiorno, dai, sono Paola. Sono fuori ormai, sono fuori. Senti, raccontaci, allora, era novembre, giusto? Era novembre del 2011. Sì, infatti. Tu sei al... Quella del prosciutto fa un po' ridere, in effetti, ma è vera, perché io ero al supermercato, ho ordinato, sono al telefono, dimmi Silvano... Siamo caduti con l'aereo. Beh, sei capelli dritti. Ma scusami, alla frase siamo caduti con l'aereo, tu come hai risposto? Io sono rimasta senza voce, perché quello che mi stava servendo in quel momento ha visto che sono diventate di tutti i colori, senza sapere cosa era successo, è andato a prendermi un bicchiere d'acqua. Ah, che gentile. E dopo ho detto: ma come state? E dice: siamo vivi. E vabbè, fa male la gamba, che poi era il bacino. Vabbè, Andrea fa male il piede. Che, insomma, ero disperata al momento, logico, ma siccome l'ho sentito subito, ho detto: oddio mio. Allora, certo, tu sono vivi, l'hai presa, diciamo, dalla parte giusta, nel senso che il fatto che lui stesso ti stesse dicendo che avevano fatto un incidente, ma te lo stesse dicendo lui dalla sua viva voce, era probabilmente meglio che non qualcun altro che te l'avesse. Infatti, lui ha chiamato te per prima cosa. Esatto, lui ha chiamato me perché non voleva che lo sapessero, che lo sapessi, che ne so, dei carabinieri piuttosto che dei vigili del fuoco, del pronto soccorso. Senti, quindi lui ha chiamato me. Paola, senti, dimmi un po' di tuo marito. Tuo marito da quant'è che c'ha questa passione per il volo? Beh, lui ha una passione da sempre del volo. Poi 2 anni fa aveva preso questo aereo con 2 amici. E ha fatto tutti i corsi. Anche la fonia inglese, aveva fatto tutto quello che... Lui era perfetto nella guida, perché io mi sentivo e mi sento ancora sicura. Perché questa è la notizia, Paola, è che lui ha ripreso a volare, anche se... Naturalmente lui ha ripreso, non è mica colpa sua. Cioè, certo. L'aereo era... Che è quello che dicono... Aveva dei problemi probabilmente, ma la guida, la sua guida era perfetta. Che è quello che dicono... Che è quello che dicono i piloti, no? Che hanno paura di un problema tecnico, perché per loro si credono infallibili, no? Ed è la stessa cosa. Senti, tu quindi sei salita anche con lui dopo l'incidente? Ancora no, perché lui ha riniziato il volo solo da 10 giorni, non di più. E tu come sei stata la prima volta che lui... L'ho lasciato riprendere, oltretutto lo hanno riportato sul volo, gli hanno spento il motore, gli hanno fatto fare tutte le prove possibili e immaginabili in modo che lui si sentisse sicuro nuovamente. Ed è sicuro e tranquillo? È sicuro e tranquillo, difatti lui ha fatto queste prove con un istruttore, okay, il quale, avendogli spento il motore, avendo detto adesso vai ad atterrare, lui si ha fatto tutto, okay, è tornato normalissimo come prima. Certo, senti, lui mi dicevi prima al telefono che cammina ancora col bastone, però si sta riprendendo e li lascerà. Vabbè, giusto? Guarda, ormai non fai salti mortali tripli, ma ha fatto di tutto, perché si è impegnato di tutto, con terapie, piscina, massaggi. Ma scusami, Paola, Paola, senti un secondo, tu sei serenissima, non gli hai fatto neanche un cazziatone a tuo marito? No, assolutamente, perché quando uno ha una grande passione e ci mette impegno, secondo me deve continuare su quello su cui crede. Sei la moglie perfetta, Paola. Senti, grazie. Mi dicevi che siete in pensione da praticamente entrambi da un anno. Sì. Ci sono stati... Guarda che adesso, passata questa roba che è stata veramente spaventosa, sì, noi adesso ce la godiamo: camper, moto, aereo. E noi adesso partiamo per i nostri viaggi e torneremo a fare la vita che ci eravamo prefissati di fare con una pensione. Dove andate? Quando partite? Adesso partiamo la prossima settimana, andiamo in California. E dopo andremo a Berlino. Abbiamo tanti quei programmi in testa che non ci mancheranno i giorni. Tuo figlio come sta? Cosa fa? Mio figlio sta bene. Tutti benissimo. Sono voluti più di 3 mesi per rimettersi a posto, perché lui aveva anche un problema di vertebra. Però è giovane, ha una ripresa molto più facile, più veloce, quindi... spero solo che non debba pagare nel futuro, ecco. Certo. Questo era il problema mio. Paola, senti, starei con te ore al telefono a sentirti parlare, ma devo mandare la borsa. Ti ringrazio per la storia, faccio in bocca al lupo per tuo marito e fate buon viaggio e buona pensione. Grazie. Ciao, grazie ancora. Ciao, Paola, buona giornata. Ciao. Paola salutava, grande, saluta tutti. 349-238-6666. Stanno già arrivando un sacco di storie su Picasso, ma si continua a parlare degli incidenti da cui siete usciti illesi. Paola e Silvano, nella foto che ci hanno mandato e che trovate e potete vedere sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, sono ovviamente in volo, non guardano l'obiettivo, si guardano l'un l'altro, anche se hanno gli occhiali da sole, quindi non... non si vede benissimo lo sguardo. Hanno su quelle cuffione, proprio le cuffione che ci si immagina ai piloti, larghe, rosse, col microfono che spunta. Alle loro è un aereo piccolo, minuscolo. Alle loro spalle il corpo dell'aereo è un po' scuro, ma esattamente sopra di loro la volta celeste. Volo. Sostantivo maschile. Sostentamento e spostamento nell'aria con particolare riferimento ad animali forniti di ali o ad aeromobili. Figurativo, rapido raggiungimento di una posizione imminente, spostamento rapido da un luogo ad un altro che prevede una brevissima sosta. Etimo, derivato di volare, data secolo XIV. Aeromobili, questo è difficile. Voi siete qui, @radio24.it. Se avete voglia di partecipare alla serata in esclusiva per gli ascoltatori di Radio 24, dedicata alla mostra di Picasso. Il tutto si tiene a Palazzo Reale, a Milano, la sede delle principali mostre milanesi, di fianco a Piazza Duomo, alle 21 la sera di mercoledì 24 ottobre. Ci saranno presenti alcuni conduttori della radio, me compreso, ci sarà qualcuno che spiega molto meglio di chi di me, di noi sicuramente, la mostra e i quadri di Picasso. Per partecipare mandate una mail a voi siete qui @radio24.it. Le prime 20 mail che arriveranno, in cui raccontano una storia legata, capitata a loro, legata ai quadri di Picasso, avranno due biglietti per quella serata di mercoledì 24 ottobre 2012. Vi faccio un esempio, scrive Andrea: dicembre 2011, museo di Picasso a Barcellona, davanti a Guernica ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi. Ci sposiamo il prossimo 4 di maggio. Voi siete qui, @radio24.it. E torniamo invece ai messaggi in cui si racconta di come si è usciti lei da un incidente. E devo dire che molti sono proprio belli da leggere perché sono stati scritti adesso. Centrato a 130 km all'ora con la mia moto al fianco di un'auto che non ha rispettato lo stop. Io, passeggera, volo di 20 metri, mi sono rialzata ancora con sugli occhiali. La moto a pezzi. E poi invece Bruno: anniversario dell'11 settembre, volo Verona-Roma, come passeggero scoppia un pneumatico al decollo. Scene da film, Fiumicino chiuso, carburante in mare, atterraggio d'emergenza, panico a bordo. Scesi dalla scaletta dell'aereo. E poi ancora, questo messaggio invece è un messaggio di Cristina: sono stata investita da un novantenne sulle strisce pedonali. Mi piace come specifica, non da una macchina, ma da un novantenne, in auto immagino, sulle strisce, per un novantenne che ti investe a piedi è più complicato che ti faccia del male. Sulle strisce pedonali sono stata miracolata. Da quel giorno ho capito che dovevo infischiarmene della precarietà del lavoro e dopo poco sono rimasta incinta. Cristina da Pisa. 349-238-6666. Sul profilo Facebook del programma oggi è arrivata una storia che potete leggere, è pubblicata, perché Giacomo l'ha messa proprio pubblica sulla nostra pagina, ed è una storia che si intitola Mozzarelle e vernice. Giacomo, gira qui, che compriamo le mozzarelle di bufala. Ok, mamma, a costo. Mi avvicino alla linea di mezzeria della Pontina, la strada Mare Morte. Attendo che non ci sia nessuno che arrivi in senso contrario. Sto per girare, ma come una furia, dietro di me, dallo specchietto retrovisore, vedo arrivare un autotreno con rimorchio. Ecco, ora ci prende, penso. Passano pochi secondi, quegli attimi che si dilatano nel tempo, ti avvolgono e scorrono lenti, più lenti del tempo normale. Tic, tac, tic, tac. L'autotreno carico di vernice si avvicina. Sono morto, penso. Ciao mamma, peccato per le mozzarelle di bufala. Tic, tac. Chiudo gli occhi, lo vedo vicinissimo e bam! Il rimorchio dell'autotreno colpisce di striscio il parafango posteriore della mia auto. Il suo sorpasso a destra non riesce perfettamente e la vernice che porta, danzando nella cisterna, fa sbandare la motrice. Secondi lunghi come una notte d'inverno. Tic, tac. Il camion si rovescia davanti a me, ancora incredulo. Poi, silenzio. Scendo toccandomi il corpo per sapere se sono ancora vivo. Mi avvicino all'autotreno rivoltato come un elefante ferito. Le ruote ancora girano, in silenzio. Mi avvicino sull'asfalto bianco per cercare l'autista. Tic, tac. tic, tac. C'è vernice dappertutto. Non lo vedo. Proseguo, salgo dentro l'elefante. Lo trovo incastrato tra il lettino della cuccetta e il tetto dell'abitacolo, illeso. Mezzo chilo di mozzarella di bufala, grazie. Ah, faccia pure 2 etti di prosciutto crudo, tagliato fino. Ogni giorno una storia nuova, ogni giorno musica nuova. Questa è Voi Siete Qui e va in onda qui su Radio 24 alle 16, tutti i giorni. Oggi si parlava di incidenti da cui si è usciti illesi e chiudo con questo. L'amica di mia nonna, la signora Elettra, fu investita dal nano del circo in giro con la sua minimoto. Ti giuro, è tutto vero. Grazie a te, grazie a Paolino Corleone, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Paola e anche lei, da oggi, è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Massimo, abito a Pistoia, sono aglianese di nascita. La storia di domani è la mia e parla di fughe e marachelle. Questa è la mia storia ed io sono qui.